Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siam. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siam. Il nostro spettacolo alterna monologhi a letture di lettere, documenti, con spazi musicali e immagini. Uomini e donne di oggi setacciano i ricordi e li restituiscono al presente, facendo giungere immagini e emozioni che il cuore ha stampato nella mente. Una sfida alle durezze della guerra, della natura, ma soprattutto una sfida con se stessi, con la propria ragione, che ci detta un comportamento e il cuore che ne segue un altro. Raccontare la resistenza attraverso la voce dei nipoti dei partigiani. Abbiamo ricevuto tante risposte, tante persone hanno voluto portarci i loro racconti, le loro testimonianze, appassionate, sincere, intense. Quindi c'è in questo insieme teatrale la traccia del passato dei nostri luoghi, della nostra gente. C'è il tentativo di catturare alcuni momenti vissuti da chi voleva a tutti i costi dare un futuro migliore ai propri figli, un futuro fatto di giustizia e costituzione. Questa è una storia che vuole aiutare a non dimenticare. E mentre nelle sere d'estate qualche solitario suonatore alzava la sua musica al cielo, loro aprivano nuovi varchi, passavano di ruolo, diventavano i capi di 20, 30, 50 uomini. Intanto morivano e il loro sangue scendeva nella terra, facendo nascere rossi papaveri. E i bambini giocavano alla luce della luna. Il 25 aprile del 1945 si chiudeva un capitolo buio della storia d'Italia. La gente si ritrovò per le strade mentre gli alleati occupavano il paese. La guerra era finita, la miseria dilagava. Occorreva rimboccarsi le maniche e la gente di fatica si apprestava a risalire la china. Con la mia bicicletta portavo messaggi a certa gente della resistenza. Noi vogliamo guardare attentamente alla resistenza come il punto più alto raggiunto dalle masse popolari italiane nella lotta contro l'oppressione sociale, la fame e la miseria. Vogliamo fare nostra l'esperienza di quei proletari, di quei militanti che a decine di migliaia liberarono l'Italia dal nazifascismo, con la speranza di avviarsi a vivere una vita nuova, mai più fatta di stenti. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Da quando sono nata, per 17 anni, ho sempre dormito nello stesso letto, nella stessa posizione, nella stessa stanza di una vecchia casa in mezzo ai prati. D'estate c'erano i papaveri. Il mio letto era vicino a una piccola finestra con l'intelaiatura bianca che ogni 6 o 7 anni cambiava colore. Ogni anno, fuori da quella finestra, proprio sotto al tetto della casa, venivano le rondini a fare il nido. E la vita era tutta là, in quelle cose che ogni anno si ripetono: il Natale, la Pasqua, le sere di maggio in chiesa a dire il rosario, fra uno scherzo, un pianto e la miseria della guerra, che oramai era nostra amica. Le lettere scritte da mio padre le ho sempre tenute fra le mie cose preziose. Mio padre era un partigiano. Dove siete, partigiani di tutte le valli? Tarzan, Riccio, Sparviero, Saetta, Ulisse. Oh, molti dormono in tombe decorose, quelli che restano hanno i capelli bianchi e raccontano ai figli dei figli come, al tempo remoto delle certezze, hanno rotto l'assedio dei tedeschi, là dove adesso sorge la seggiovia. Alcuni comprano e vendono terreni, altri si raggrinzano negli enti locali. In piedi, vecchi, però non c'è congedo. Ritroviamoci, ritorniamo in montagna, lenti, ansanti, con le ginocchia legate, con molti inverni nel filo della schiena. Il pendio del sentiero ci sarà duro il giaciglio, duro il pane. Ci guarderemo senza riconoscerci, diffidenti l'uno dell'altro, queruli, ombrosi. Come allora staremo di sentinella perché nell'alba non ci sorprenda il nemico. Quale nemico? Ognuno è nemico di ognuno, spaccato ognuno dalla sua propria frontiera, la mano destra nemica della sinistra. In piedi, vecchi, nemici di voi stessi. La nostra guerra non è mai finita. Questa è la lettera di un giovane partigiano chiamato Giordano Cavestro, nome di battaglia Mirko, catturato dalle parti di Parma nel 1944 e fucilato a 18 anni. Poco prima della sua esecuzione scriveva: «Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime. È possibile, se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà. Cara mamma e cari tutti, purtroppo il destino ha scelto me e altri disgraziati per sfogare la rabbia fascista. Non preoccupatevi tanto e rassegnatevi al più presto della mia perdita. Io sono calmo, vostro Giordano. Con la mia bicicletta portavo messaggi a certa gente della Resistenza. Ogni ora di questo orologio, ogni minuto, in certi momenti della vita, ha contato le mie paure da quando ho iniziato a salire e scendere da queste montagne. I miei primi pantaloni lunghi li ho ereditati da mio padre. Erano pantaloni un po' abbondanti per poterli sfruttare di più. Li tenevo come un oracolo e me li appendevo ad un armadio, unici abitanti di quell'armadio di ciliegio. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con pietra si costituirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi e straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma col silenzio dei torturati più duro di ogni macigno. Con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi, che si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare ai nostri posti, ci ritroverai, morti o vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Calamandrei. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non so proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano gli altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Camicia nera che noi t'abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per i fascisti si addice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane i cari tedeschi catturano le nespole perfino sui peschi. L'amato Duce e Fiure ci davano per morti, però noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. A proposito del 25 aprile, ricordi di infanzia e adolescenza. Mio nonno acquisito, cognato prima e secondo marito poi di mia nonna paterna Pina, rimasta vedova di suo fratello, che aveva il vizio di bestemmiare in toscano, era un ex ardito d'annunziano in un battaglione toscano. Mio padre Mario, figlio di nonna Pina, era uno dei pochi tornati dalla Russia, con altri tre compagni che diventeranno i suoi cognati e miei zii materni, mentre il fratello Paolo era un ex soldato sommergibilista, impazzito, secondo mia madre Iride, durante l'affondamento dell'Andrea Doria, su cui si trovava dopo il siluramento del sommergibile su cui era da combattente. Mio padre Mario, a detta di mia madre, stregato dalla propria madre Pina, tornato dalla guerra, divenne operaio forzato, pena altrimenti il campo di concentramento del Terzo Reich nazifascista Repubblica di Salò, col fratello Paolo secondogenito, che la Pina aveva avuto dopo mio padre, dal primo marito detto Galdin, con altri tre fratellastri da seconde nozze di Pina, col cognato vedovo Gustin e il cugino Francesco da prime nozze di Gustin. Mentre mio padre Mario, suo fratello Paolo e i suoi tre fratelli acquisiti e cugino Francesco lavoravano per la Repubblica di Salò e il Terzo Reich, i miei zii materni erano falegnami in proprio e partigiani gappisti. La loro sorella Iride, futura mia madre, invece era operaia staffetta occasionale e sempre custode delle armi e delle bombe a mano dei fratelli gappisti, artigiani falegnami, tutti orfani di madre, col padre socialista in Francia. Io sono un ex cresimato soldato di Cristo, deluso e sdegnato, allontanatosi dalla militanza cristiana perché i suoi comandanti in nero disprezzavano e infangavano i suoi genitori e zii operai e partigiani comunisti, divenuto poi ex militante sessantottino di Avanguardia Operaia della sinistra extraparlamentare. In seguito, poi curatore delle anime perse, speranzoso in un radioso avvenire di fratellanza per tutti. Adesso sono stanco, disgustato dal chiacchierio di quanti hanno dimenticato che la nostra Repubblica è nata dalla resistenza al nazifascismo e di quanti si sono battuti per essa e prima per la fede d'annunziana. Note storiche sui martiri di Cima dal sito dell'ANPI. Alla fine del novembre del 44 ebbe inizio un grande rastrellamento nelle valli a occidente dell'Ario, con l'impiego inusuale per numero di forze di circa 1500 uomini. Al fine di eliminare le formazioni partigiane presenti su quei monti, i reparti nazifascisti risalirono contemporaneamente la Val Solda, la Val Cavagna, la Val Rezzo e la Val Menaggio, lungo un semicerchio che aveva come centro Porlezza. I martiri di cima sono 6 giovanissimi partigiani, appartenenti al distaccamento Quaino. Giuseppe Selva, Falco, comandante del gruppo nato a Cima nel 1916. Angelo Selva, Puccio, nato a Cima nel 1924. Gilberto Carminelli, Bill, nato a Milano nel 1918. Angelo Capra, Russo, nato a Zurigo nel 1924. Il più giovane Ennio Ferrari, Carlino, detto anche Filippo, segretario del Fronte della Gioventù, nato a Monza nel 1927. Con loro una giovane donna, Livia Bruna Bianchi, nome di battaglia Franca, nata a Melara nel 1919, mamma di un bambino piccolo. Per sfuggire ai rastrellamenti risalirono all'Alpe Vecchio usando come rifugio una piccola baita già parzialmente incendiata dai fascisti. Qui resistettero fino a metà del gennaio 45 in condizioni disumane, al gelo intenso di quell'inverno, alla neve che rendeva visibili i loro spostamenti e alla fame causata dall'impossibilità di approvvigionarsi. Infine, stremati, ridiscesero fino al paese di Cima, ora frazione di Porlezza, di cui erano originari 2 di loro. Si nascosero presso l'abitazione di un antifascista del luogo, ma scoperti vennero denunciati al centro antiribelli di Menaggio da un delatore. Circondata la casa, nella notte del 20 gennaio, le brigate nere iniziarono una violenta sparatoria. I giovani partigiani si difesero strenuamente, ma vennero indotti alla resa dallo scarseggiare delle munizioni e dalla falsa promessa, inoltrata tramite l'ignaro parroco, di avere salva la vita. Catturati, benché uno di loro fosse ferito, i giovani vennero ancora percossi duramente e infine fatti spogliare, fatti incamminare a calci e pugni lungo il sentiero che conduce al cimitero di Cima e che ora porta il loro nome, allineati contro il muro di cinta per essere sommariamente fucilati. A Livia Bianchi, in quanto donna, venne offerto che le fosse risparmiata la vita, ma lei orgogliosamente rifiutò, preferendo morire da partigiana con i suoi compagni, e per questo episodio le venne conferita la medaglia d'oro alla memoria. Sul luogo della fucilazione resse la testa al compagno ferito. La poesia che segue passa dal Natale di attesa alla passione dei 6 ragazzi, scherniti e picchiati e uccisi come il crocifisso, e Franca è allo stesso tempo una Madonna e una crocifissa. Thank you. Franca, dei martiri di Cima. Nella notte d'inverno, aspettare nella stalla che sulla paglia nascesse un dio di libertà. Franca, i tuoi occhi come i due laghi a valle, specchi di un mondo che si scopre diverso, più umano, in un cuore di donna. Franca perché salda, franca perché libera, sdegnando arretrare quando perfino facile per te sarebbe stato, salisti la croce. Pensasti allora a quella porta richiusa, ai tuoi sogni, ai bimbi lasciati nel limbo, all'amore. La vita si apriva per te oltre i monti. Bambina ancora, madre intemerata dei tuoi fratelli venduti, spogliati, scherniti, consacrata da Dio per l'uomo a un ministero di misericordia, a chiedere pace, a reggere un capo trafitto davanti al carnefice. Lasciasti a noi, documento, il tuo sangue sulla neve. Così giunsi ai giorni della Resistenza, senza saperne nulla se non lo stile. Mio fratello partì in un mattino di marzo su un treno clandestino, la pistola in un libro. Visse a lungo sui monti. Nel campo del casolare mia madre guardava sempre lassù, conscia del destino. Coi pochi contadini intorno vivevo una gloriosa vita di perseguitato dagli atroci editti. Venne il giorno della morte e della libertà. Il mondo, martoriato, si riconobbe nuovo nella luce. Quella luce era speranza di giustizia. Non sapevo quale. La giustizia. La luce è sempre uguale ad altra luce. Illuminava i braccianti che lottavano. Pierpaolo Pasolini. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, in risaia ci tocca andar. La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, mamma mia, oh che che tormento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Quando rividi Marco, molti anni dopo, fu alla festa del 25 aprile, davanti al cimitero del nostro paese. Non era più una ricorrenza retorica. Eravamo grandi, capivamo, e certe nostalgie plumbe che viziavano l'aria cominciavano a far tremare chi, come noi, amava e ama la libertà. Su quel muro, in mattoncino rosso, attorno al cimitero, c'erano i fori dei proiettili che avevano ucciso due giovani partigiani poco prima che la guerra finisse, boccucce scure che urlavano ancora il dolore. Marco era lì con il figlio sulle spalle e indosso un maglioncino color carta da zucchero. Mio fratello, anonimo flautista della banda, suonava insieme agli altri «Bella ciao». Della giunta comunale, affiliata ad altri colori, non c'era nessuno. Il dolce e amaro onere di posare i fiori vicino alla lapide fu affidato a un anziano partigiano che venne avanti fiero, appoggiato al bastone. Con voce incerta disse i nomi dei due giovani ritratti negli ovali sul muro, ammazzati per rappresaglia dai soldati fascisti. Poco dopo qualcuno aprì un ombrello sopra la sua testa, perché tra le ultime note malinconiche diffuse nell'aria iniziarono a scendere alcune gocce di pioggia. Il figlio di Marco, ancora seduto là in alto, se le leccava sulla mano. Mentre li guardavo, vidi farsi avanti verso padre e figlio da due direzioni opposte Filippo, mio fratello musicante, e Nilde, la partigiana, che come al solito portava a mano la sua bici Graziella. La donna squadrò Marco. «Te sei chi a fa? Te gheti stesse del tuo nono?» disse e se ne andò. Anche noi fuggimmo a ripararci dalla pioggia, fitta, improvvisa, avendo appena il tempo di vedere le lacrime che velavano gli occhi di Marco. Quando fummo chiusi in auto, incalzai Filippo. «Ne sai qualcosa?» «Sì». «Beh, allora parla». «Sono storie di fascisti e partigiani». «L'avevo capito. Si tratta del nonno di Marco, giusto? Era un fascista?» «Era di più. Era un fascista che spifferava». «Gesù, e tu lo sapevi?» «Sì. Ti ricordi quando lo vedemmo la prima volta mentre girovagava davanti alla cascina dei partigiani?» «Certo che mi ricordo. E chi se li dimentica quegli occhi? Ma che c'entra?» Guardava un cartoncino stropicciato dove non c'era scritto niente. Era la foto del nonno, un idolo per lui fino a quel momento, che gli aveva insegnato ad andare in bici e a pescare. Gli aveva regalato la collezione di minerali che lui desiderava tanto. L'aveva portato in montagna, da dove veniva, per imparare l'andatura della camminata lassù. In lui c'era tanto del nonno. Poi qualcuno gli disse che per colpa sua una donna era stata arrestata e che dopo una sua soffiata la cascina era stata data alle fiamme. Per questo Marco era lì. Si aspettava di vedere ancora tutti i muri bruciacchiati. Era sconvolto. aveva 13 anni. La donna del partigiano. Le labbra sigillate dal dolore ricordano e senza schiudersi pronunciano nomi di speranza. Il mio uomo è sulle montagne per amore della vita. Il mio uomo è con altri mille per far vivere l'amore. Nascondeva tra i miei capelli le lacrime di ogni notte. Il sangue della nostra gente me lo pose tra le mani. E così sono rimasta nelle cantine polverose e nelle vie della città deserta per costruire la città futura. La notte mi corico senza piangere per non svegliare il bambino dentro me. Mi corico piano e senza piangere sul materasso di giornali proibiti per non svegliare le parole. Attendete un poco, sussurro. È quasi la fine della notte. Anch'io ho saputo tacere davanti al pupazzo gentile. Ho ripiegato la mia lingua che aveva voglia di gridare. L'ho infilata in un cassetto e l'ho messa sotto chiave. Fino al tempo di un mondo rinato dal sangue, custodito nel silenzio, dalle lacrime tintinnanti come campane a martello a chiamare alla lotta. Un mondo rinato dal cuore dell'uomo. Quella sera, l'8 settembre 1943, rimarrà memorabile per tutta la popolazione del lago. Quando, verso le ore 18, la radio italiana trasmette la folgorante notizia della capitolazione dell'Italia e dell'avvenuto armistizio, il Piero si precipitò nella piazza dell'orologio già piena di gente. I soldati della guarnigione locale, assieme ai carabinieri e alle altre forze dell'ordine, stavano sul chivalà, vigilando con le armi in pugno. Vedemmo arrivare il Piero con il Nanni, seguito dai compagni Segalla, Naddi, Cattaneo, Salici e il Poretti, che sventolavano una bandiera italiana. Qualcuno gli offrì una sedia dall'alto della quale improvvisò un discorso, arringò la folla che ormai aveva occupato tutta la piazza e il comizio si trasformò in una grande manifestazione popolare. L'oratore invitò la popolazione a liberare la città, disarmando l'esercito italiano e i soldati a disertare, onde organizzare la resistenza armata ed affrontare il nuovo grande pericolo che incombeva su tutti, l'invasione della nostra terra da parte dei nazisti. Era giunto il momento della riscossa, era dovere di tutti prendere le armi per dare inizio alla lotta partigiana. In breve tempo tutta la riva antifascista si trovava in armi, a terra, sui monti, nelle valli, in pianura. Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio. Johnny stava osservando la sua città dalla finestra della villetta che la sua famiglia gli aveva trovato per imboscarlo dopo il suo rientro dalla tragica Roma fra le settemplici maglie tedesche. Lo spettacolo dell'8 settembre locale, la resa di una caserma con dentro un intero reggimento, la deportazione in Germania, in vagoni piombati, avevano tutti convinto che Johnny non sarebbe mai tornato. Forse stava viaggiando per la Germania, in uno di quei neri e puzzolenti vagoni. Aleggiava da sempre intorno a Johnny una vaga reputazione di testa fra le nubi. Johnny invece era irrotto in casa di primissima mattina. S'era veloce spogliato e rivestito del suo migliore abito borghese, passeggiando su e giù in quella ritrovata pulizia, mentre i suoi li inseguivano pazzamente. La città era inabitabile, così sui bravi bandi di Graziani, affissi a tutte le vie, con un drappello tedesco nel primario albergo e continue irruzioni di tedeschi su camionette che riempivano i sibili le strade deserte. Assolutamente inabitabile. Il tempo di arraffare alla cieca una mezza dozzina di libri dai suoi scaffali e di chiedere dei reduci amici. Il tempo per sua madre di gridargli: mangia e dormi e nessun cattivo pensiero. E poi sulla collina in imboscamento. E chi lo sa se sarebbe tornato. Libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor. Tutto rompe, tutto in frange con la forza e con l'ardor. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e non temiamo la morte. La stella rossa in fronte, la civiltà portiamo ai popoli oppressi, la libertà noi porteremo. Fate largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitre e col fucile, siamo pronti per scattare ai traditor fascisti. Ce la faremo pagare con la mitra. Le donne affrontarono tra il 1940 e il 45 un periodo dei più scuri. Figli e mariti al fronte, a casa razionamento e bombardamenti. Però la donna partecipa attivamente alla lotta di liberazione e prende coscienza del suo ruolo nella nuova società italiana. Lo dimostrano alcune lettere di donne della Resistenza condannate a morte. A voi converrà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi, come l'ho tanto voluto io stessa. Voglio attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria. Caro figlio, non posso scriverti tutto quello che sento, ma quando sarai grande, allora capirai. Non consideratemi diversamente da un soldato che va sul campo di battaglia. Sento il volere di Dio e voglio che esso si compia. credo che questa sera avverrà. Avrei tanto voluto vedere tempi nuovi. Mio caro marito, il mio ultimo respiro sia ancora di ringraziamento al destino che mi ha concesso di amarti e di vivere con te. Avrei tanto voluto vederti ancora una volta, ma poiché non mi sono concessi favori, sono troppo fiera per fare una richiesta inutile. Mamma, credimi, era assurdo che i tedeschi portassero via gli uomini in quella maniera. E come tedeschi e fascisti sparavano su noi donne che eravamo andate là per cercare i nostri genitori, fratelli. Per la prima volta ho provato l'odio. Amapola, lindissima amapola, la sfinge del mio cuore sei tu sola. Io ti bramo, ti invoco follemente per dirti quanto t'amo, t'amo appassionatamente. Amapola, lindissima amapola, la luce dei miei sogni sei per me. Deliziosa, armoniosa, come il suono della mia mandola. L'8 settembre ho scelto questa strada perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche di noi donne, perché quelli che erano lassù in montagna non potevano venire in città, sarebbero stati arrestati. E così mi sono decisa a fare la staffetta, avanti e indietro, con la mia bicicletta, a portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri. La donna della resistenza accetta la guerra con le sue regole di violenza. In montagna parteciparono a tutte le azioni delle formazioni partigiane. La sera del 7 novembre a Bologna si combatte contro i tedeschi la battaglia di Porta Lame. Oltre 500 sono state le donne cui sono stati affidati compiti di comando. A Porta Lame, decisiva per le formazioni partigiane, fu una ragazza di 17 anni, Germana Boldrini, a dare il segnale dell'attacco partigiano. Arrivai a Porta Lame circa un 6-7 minuti prima e lì ci fu l'attacco in piazza della Porta. Con la mia arma automatica e le bombe a mano lanciai il fuoco. I miei compagni mi seguirono. Ci furono delle perdite da parte nostra e da parte dei tedeschi. In casa mia si è sempre vissuti in quell'atmosfera. Mio padre aveva vissuto 12 anni di confino, molestato sempre dai fascisti. Io sono cresciuta con spirito di coraggio e per forza, certo. E dopo la morte, brutta. L'hanno anche fucilato sulle macerie della casa. L'ho visto 2 giorni prima di morire. Poi basta. Neanche sono stata al funerale. Niente, che non gli han fatto un funerale civile, ma un funerale con un carro da buoi. Neanche il permesso di dargli una carrozza. Niente. Anche il mio amico Armando, fucilato con lui. Anche lui. Da Papa Francesco. A tutti quelli che usano ingiustamente le armi di questo mondo, io lancio un appello. deponete questi strumenti di morte, armatevi piuttosto della giustizia, dell'amore e della misericordia, autentiche garanzie di pace. Carissimi genitori, parenti e amici tutti, devo dirvi una brutta notizia. Io e Candido siamo stati condannati a morte. Fatevi coraggio, noi siamo innocenti. Solo siamo partigiani. Dopo tante vitacce in montagna, dover morire così. Vado alla morte tranquillo, assistito dal cappellano delle carceri. Andate poi da lui. Vi dirà dove mi avranno seppellito. Dietro il quadro della Madonna, nella mia stanza, troverete un po' di denaro. Prendetelo e fate dire una messa per me. La mia roba, datela ai poveri del paese. Coraggio! Termino con mandarvi tanti baci e tanti auguri di Buon Natale. Io la passerò in cielo. Vostro figlio Armando. Viva l'Italia! Viva la libertà! Un dialogo fra Corrado e Kate nella casa in collina di Cesare Pavese, in cui si invita non ad appendere la propria cetra alle fronde dei salici, ma a lottare contro il fascismo. «Non sei mica fascista», mi disse. Era seria e rideva. Le presi la mano e sbuffai. «Lo siamo tutti, cara Kate. Se non lo fossimo, dovremmo rivoltarci, tirare le bombe, rischiare la pelle. Chi lascia fare e s'accontenta è già un fascista». Molto incisiva una lettera che un grande pittore, scrittore e intellettuale, Ugo Bernasconi, scriveva ad Ardengo Soffici il 19 gennaio 1947, dove, fra l'altro, gli annunciava la morte del figlio Lionello, mandato inutilmente in missione sul Mediterraneo e scomparso in mare dopo che l'armistizio era già stato firmato. Tu sai quali erano le mie opinioni e i miei sentimenti sull'inconsulta impresa e sulla disperata gente che presumeva di governare l'Italia. Tutto ciò che è accaduto, come puoi immaginare, non ha fatto che rafforzarmi in quei sentimenti e in quelle opinioni. Con molta mia amarezza, si intende, e duratura, che ben so che per il nostro paese è appena cominciata l'espiazione, che sarà lunga e durissima, ma credo che non perirà. Ho ancora tanta fede da sperare che la gente italiana uscirà dalla tremenda prova rinnovata. Di tale rinnovamento noi, dico quelli della nostra generazione, non vedremo nemmeno l'aurora. Non importa, dobbiamo rimanere ciascuno al proprio posto di combattimento, cioè di lavoro, accettando ciascuno la propria parte di espiazione. Che tutti siamo in qualche misura colpevoli, e quelli che hanno collaborato alla rovina e quelli che non seppero opporvisi efficacemente quando n'era tempo. Col parabello in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Quando avrò vinto. Col parabello in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Quando avrò vinto, ritornerò. E allora il capobanda giunto alla pattuglia, sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse. E allora il capobanda giunto alla pattuglia, sempre ben armato, mi vuol salutare. E poi mi disse, i fascisti son là. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando ribelli, gridando ribelli. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, i fascisti sparivano, gridando ribelli, abbiate pietà. Adriano Grossi, sottotenente di artiglieria, catturato una prima volta nel 1943 per resistenza armata alle forze tedesche e condannato a morte. Evade e si unisce a Giacomo Perlasca nella formazione di Valle Sabbia. Ne diventa vice comandante. Arrestato una seconda volta, processato il 14 febbraio 1944 dal Tribunale Militare Tedesco di Brescia. Fucilato il 24 febbraio 1944 presso la caserma del 30° Artiglieria di Brescia con Giacomo Perlasca. Miei carissimi genitori, sorelle, fratello, nonna, zii e cugini, il Signore ha deciso che io mi staccassi da voi tutti, quando avrei potuto essere di aiuto alla famiglia. Ah, non disperatevi, pregate piuttosto per me e per voi. Tutta la vita è una prova, io sono giunto alla fine. Purtroppo ho fatto molto poco di buono, ma almeno muoio cristianamente. Vi chiedo scusa se mi sono messo sulla via partigiana, ma so che mi perdonerete. Ora vi abbraccio per l'ultima volta a tutti. Questo abbraccio spirituale è superiore alla morte. Vostro Adriano. Nina, Nina Ni, figlia mia adorata, è la prima ed ultima lettera che ti scrivo. Sarò fucilato all'alba per un ideale che un giorno capirai. Non piangere mai, come non ho mai pianto io. Ti vorrò sempre tutto l'infinito bene. Sapessi quante cose vorrei dirti. Ma mentre scrivo, il mio pensiero corre, galoppa nel tempo futuro che per te sarà, deve essere, felice. Vai sempre a fronte alta per la mia morte e ricorda che tuo padre è un partigiano. Nina, Nina, Nina Ni, cantava mio padre, facendo diventare il mio nome una tenera cantilena. Nina, Nina Ni, Nina, Ni, Nina Ni. Quella sera di maggio del 1944 mi strinse forte e mi disse: Nina Ni, amore, tra poco tempo saremo liberi e io ti porterò alle giostre. Lui non poteva portarmi alle giostre perché era un ricercato. Un antifascista. Era un avvocato mio padre, ma non poté più esercitare perché entrò nella lotta clandestina. Avevamo pochi soldi, cambiammo spesso casa, poi ci trasferimmo in una casa senza portiere. C'era un bel giardino con un grande albero di fico. A volte, insieme alla mamma, portavamo passaporti e messaggi segreti nascosti sotto i fichi. La mamma diceva che in quel cesto c'era la speranza. Una sera mio padre non tornò a casa. Era stato portato a San Vittore. Lui non è più tornato. Deportato a Mauthausen, dove morì. Pochi giorni prima del 25 aprile del 45. Dopo la liberazione mi portarono dal nonno e la sera lui mi portava sulla collina a vedere il sole che tramontava e lì c'era quell'albero dove ricordo che il babbo mi diceva: dai, Ninanì, forza, che ce la fai. Non diventare mai, mai una donna rassegnata e che non può osare. Tu sei libera, nessuno potrà decidere della tua vita. Ricordatelo sempre. E parlava del domani, di un'Italia diversa da costruire, di una democrazia in cui tutti avrebbero avuto gli stessi diritti. Quella sera salii sul fico e pensavo a lui che mi diceva: dai, vieni Ninanì, salutiamo il sole. Il sole va via, ma domani ritorna. Allora mi misi a guardare quella palla rossa che stava scomparendo dietro la collina. Il sole è come la speranza. Sembra che vada via, ma poi ritorna. Sempre. Non è vero? E mentre nelle sere d'estate loro aprivano nuovi varchi, nella terra nascevano rossi papaveri e i bambini giocavano alla luce della luna. Parola e sarai libero. Di la parola e sarai come me. Di la parola che sto pensando. Hai sentito? La parola è amore. È così bella. È la luce del sole. È la parola amore. All'inizio avevo frainteso, ma ora lo so. È la parola giusta. Diffondi la parola e sarai libero. Diffondi la parola e sarai come me. Diffondi la parola che sto pensando. Hai sentito? La parola è amore. È così bella. È la luce del sole. È la parola amore. Ovunque vado la sento dire, nei libri buoni o cattivi che ho letto. Dai alla parola la possibilità di dire che la parola è la soluzione. È la parola che sto pensando. È la sola parola. È amore. È così bella. È la luce del sole. È la parola amore. Ora so che quello che sento deve essere giusto e voglio mostrare a tutti la luce. Di la parola e sarai libero. Di la parola e sarai come me. Di la parola che sto pensando. Hai sentito? La parola è amore. È così bella. È la luce del sole. È la parola amore. Ok, amici, questa è una canzone dei Beatles, dell'album Rubber Soul, The World, la parola, 1965. Viva la radio, viva la musica, viva l'arte, la poesia e la cultura. Ciao, un abbraccio grande, a dopo. E così, amici, la pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Frase di Giovanni Paolo II. Di Oriana Fallaci. Agli uomini non interessa né la verità, né la libertà, né la giustizia. Sono cose scomode e gli uomini si trovano comodi nella bugia, nella schiavitù e nell'ingiustizia. Ci si rotolano come maiali. Chi non si prodiga ogni giorno alla pace è compartecipe alla distruzione di tutto quello che oggi conosciamo. Oggi è arrivato il momento dell'onestà, altrimenti capitalismo, liberismo e nuovo nazismo ci porteranno tutti nella fossa. L'Italia e l'Europa, che tutti quanti sognavano, è divenuta merce di scambio dei mercati internazionali. Venendo meno le democrazie, tutto il futuro diventa un racconto corrotto, errato, indubbio. È ora di regole certe, di indagini e commissioni nazionali, internazionali, indipendenti per salvaguardare il futuro dell'uomo. Assange rappresenta la trasparenza che tutti i democratici auspicano. Noi chiediamo a gran voce solamente la sua libertà, perché è un partigiano del nostro tempo. Fischia il vento, urla la bufera.